anche un fianco è troppo poco, un palpeggio sulla schiena è troppo poco. Non c'è niente di migliore di quando tu mi svuoti dal cervello fino ai piedi. Oggina, fai man bassa di me.